colonia estiva non si respirava, son sicuro che la corriera partiva. E poi salutavano, oh yeah, c'era una storia d'amore. Mentre lo sbracciava, mi ricordo che il complesso suonava. E poi solo tenebra, oh yeah. Le stagante dell'83 sembravano sintetiche. Lo scrivi sì, lo scrivi o no, il tuo romanzo erotico. Metà è finita a Rimini, con le signore in bikini, le radioline cantano la pubertà. C'era la straniera del mare, la tua non passava, io mi nascondevo, li spiavo, lei è il mio amico del cuore, perché si toccavano, oh yeah. Le vacanze dell'83 sembravano sintetiche, lo scrivi sì, lo scrivi o no, il tuo romanzo erotico. Me sei finita a Rimini, con le signore in bikini, le radioline dicono, visioni dell'83, visioni senza pillole, un giorno o l'altro scriverò il mio romanzo erotico. Se sei finita a Rimini, la playa di Camerini, le radioline segnano la pubertà.